I numeri ancora una volta ci danno segnali incoraggianti. Gli attualmente positivi sono poco meno di 500 in più, le vittime ancora tante, ma ormai poco più di 400, poco più di 2000 i guariti. E le terapie intensive continuano a registrare uno svuotamento. Sarà una settimana importante, lo sappiamo, per decidere cosa, quando e soprattutto come e dove ripartire. Le fabbriche con quali misure di sicurezza, i parchi con che tipo di accessi, i bar e i ristoranti che arriveranno per ultimi con regole specifiche. Difficile trovare una strategia quando ogni regione, da ieri anche il Piemonte, ogni settore, ogni ministero ha la sua specifica task force. Intanto si litiga che è un piacere tra regioni e governo, tra regioni e regioni, all'interno dei partiti. Insomma, ci piaccia o no, si va verso la normalità. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. E chissà se questo tutte le cose andranno bene di Bob Marley ci richiama anche alla politica che torna a questa normalità, come si diceva, la normalità di un bel litigio quotidiano con spaccature tra le regioni, De Luca che vuole chiudere i confini, Zaia che dice allora è la rottura tra nord e sud. Le regioni che ancora discutono, cioè qua adesso anche la Lombardia contro il Lazio e il Lazio contro la Lombardia. Il governo che non sa esattamente come muoversi e quindi si affida alle task force. Lo fanno anche le regioni, si diceva, il Piemonte ne vuole una, ne ha voluta una con alla guida l'ex ministro della salute Ferruccio Fazio. Quindi, insomma, se volete interpretarlo come un segno di normalità, il Movimento 5 Stelle che si spacca al suo interno tra i movimentisti alla Di Battista e i governisti alla Di Maio e Conte, pur su posizioni un po' diverse. Si ricomincia, ragazzi, si ricomincia. Chissà come prenderla questa cosa. Fatto sta che noi tutti attendiamo che si arrivi ad un certo punto. Quello che diciamo sempre è non tanto dirmi il 4 maggio riparto, ma dirmi che strategia hai per ripartire. E vale per il governo, vale per le regioni, vale per tutti, vale per tutti. Dateci un'idea di quello che può succedere, Un minimo di prospettiva. Dire, insomma, io sono qua, ho deciso che sulla base di questi dati mi muoverò in questa direzione, punto. Poi non è che mi devi dare necessariamente una data. Dimmi se hai un'idea su cosa fare. Ci siamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, questo è 24 Mattino, è lunedì 20 aprile, sono le 6:33 minuti e vi aspetto. Alcuni di voi hanno già cominciato a scrivere, però insomma continuate al 349-238-6666, anche con le vostre voci e soprattutto con le vostre voci, i vostri WhatsApp audio. Iniziamo da questa ripartenza, dal come ripartire. Qua veramente curioso, se vi ricordate il ministro Patuanelli è stato ospite nostro nello spazio alle 8:20 una decina di giorni fa, se sbaglio un paio di settimane fa, adesso vado a naso, e aveva parlato di una riapertura per filiere delle fabbriche. Qua si sposta un pochino e andiamo sulle riaperture regionali. Si può ragionare su alcuni elementi di regionalizzazione delle aperture, dove ci sono le zone che hanno meno presenza di persone positive, è più facile anche andare a valutare nel caso di nuovi positivi la catena dei contatti e quindi avere sul territorio ovviamente le parti sanitarie che riescono a garantire la quarantena per le persone che sono state in contatto con quei pochi casi positivi. Tutti i ragionamenti che stiamo facendo con la task force del dottor Colao e con il comitato tecnico scientifico per arrivare a proporre nelle prossime settimane delle aperture mirate alle nostre attività produttive. Ci dice un ascoltatore: anche la Lombardia avrebbe bisogno di una task force. Lo sa che credo che ce l'abbia? Se non vado errato, anche la Lombardia ha la sua task force. Poi chiamatela come volete, un gruppo di lavoro. Io ve la dico la mia, anche se è brutale, un po' cattiva, L'impressione è che la politica non abbia in questo momento la forza di decidere, di prendere le cose in mano e di decidere, e quindi crea delle task force, crea dei gruppi di esperti per farsi dire che cosa fare, ok? Questo è. Dato che, come dice anche Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, è un infettivologo, quindi uno che ne sa oggi sui giornali in un paio di interviste, dato che dice noi possiamo dire una cosa, ma poi è la politica che decide come agire, e qua si vuole un po' aspettare la task force che ci dica cosa fare, perché manca un po' di coraggio politico. Dice il neo presidente di Confindustria, presidente designato di Confindustria, poi da metà maggio sarà in carica ufficialmente, Carlo Bonomi, intervistato sempre a Che Tempo Che Fa, anche Patuanelli era a Che Tempo Che Fa, c'è stato una sorta di confronto tra i due. Dice Bonomi: siamo in ritardo nell'elaborazione della strategia. Io credo che oggi ancora di più viene valorizzato quello che dicevamo 5 settimane fa, cioè la data è in funzione del modello che noi studieremo per le riaperture. Lo chiedevamo 5 anni fa, oggi credo che siamo in ritardo, perché il 4 maggio è dietro l'angolo e studiare un modello dal qui al 4 maggio non è così semplice. Quindi noi ci siamo messi a disposizione, avevamo voglia di collaborare, spero che la voce delle imprese venga ascoltata, perché la ripresa di questo paese, e lo diceva prima anche il ministro, la salute passa anche dal lavoro, il lavoro è salute, è importantissimo. Sul tema delle regioni, su come, quando ripartire, Walter Ricciardi, che è, come sapete, il consulente del governo, fa parte, è dentro il comitato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in rappresentanza dell'Italia, e sul quale ieri si sono appuntate tutta una serie di polemiche, perché ha postato un video di una serie di persone negli Stati Uniti che prendono a pugni un fantoccio di Trump. Quindi ha dovuto chiarire qual è il suo ruolo, che non fa parte dell'OMS, non è dentro, vabbè, insomma, spicci. Però, insomma, dice Ricciardi, la fase 2 in alcune regioni è prematura. È troppo presto, assolutamente. I numeri, soprattutto in alcune regioni, sono ancora pieni di una fase 1 che ancora deve finire. Quindi è assolutamente importante non affrettare, continuare. E il piano del ministro Speranza, articolato su 5 punti, che sta preparando, diciamo, la fase 2, è quello da attuare, che è basato su distanziamento sociale, rafforzamento ancora del servizio sanitario nazionale, sia della parte territoriale che della parte ospedaliera, e poi della diagnostica estesa ma mirata e del tracciamento. Questa è la fase preparatoria, però non c'è dubbio che potrà partire, soprattutto in alcune regioni, quando avremo i nuovi casi sulle dita di una mano. Caro Roberto Arditti, buongiorno, direttore editoriale di formiche.net, come stai, Roberto? Bene. Compatibilmente con una situazione complessa per tutti. Senti, non sei in una task force tu, vero? No? A te non ti ci hanno messo. No, sono un po' deluso anche per me, devo dire la verità. Insomma, un po' mi dispiace non essere nemmeno una task force. Ce ne sono talmente tante, insomma. Ce ne sono tante e, diciamo, denotano una certa tendenza al vizio italico. Dall'altra parte dico anche però che in una situazione inedita, imprevedibile, molto complessa, il supporto della competenza, quindi degli esperti, è un segno positivo del sistema. Sì. Cioè, no, se c'è un momento nel quale ricorrere agli esperti, anche con le loro opinioni diverse, sia sì. chiaro, io qui non condivido le critiche di molti che dicono, anche verso medici e scienziati, ah vabbè, ma sentiamo una babele di opinioni diverse. In un certo senso mi verrebbe da dire meno male, perché il pensiero unico è nemico mortale della verità. Per carità, sì. Quindi sì. anche il fatto che i medici e gli scienziati discutano e non trovino sempre l'idea che mette tutti d'accordo è un segno tutto sommato di vitalità intellettuale del sistema da preservare. Lo dico perché. Sì, detto ciò. Poi noi, ecco, per esempio, ascoltavo nelle registrazioni che ci hai fatto sentire della trasmissione di Fabio Fazio di ieri, l'opinione del ministro è per me del tutto condivisibile. Mi limito a osservare, siccome molti ministri, da Patuanelli alla Pisano per i bambini nei parchi, a molti altri, avanzano idee, suggerimenti, suggestioni, proposte, spunti, che il compito, ma lo dico sommessamente al ministro Patuanelli e a tutti i suoi colleghi, di chi governa è decidere e rivolgersi agli italiani dando delle comunicazioni ufficiali dopo averci pensato, ragionato sì. con gli esperti, sì. perché se tutti qua facciamo il mestiere della proposta non ne usciamo vivi. Ah, sì, sì, sì. Sì, sì, no, assolutamente, anche perché, parliamoci chiaro, la fase è confusa, le persone per certi versi sono smarrite ancora, no? Non sanno esattamente che cosa succede, non lo sappiamo noi che siamo dentro il mondo dell'informazione, maciniamo queste cose quotidianamente, insomma, ad ogni ora, ogni mezz'ora, ogni quarto d'ora, quindi... insomma, le persone non sanno che cosa succede, ti senti, ti arriva il ministro che dà l'intervista, che ti dice una mezza cosa, che però non è ancora stata decisa, tu la prendi per fatta, ti ci crei un'illusione, un'idea e poi questa cosa non si realizza. Ora, quindi, no? Esatto, ora il 4 maggio, data citata anche dal capo del governo come sì. diciamo indicativa di attività che riprendono, è ormai un po' entrata nella testa degli italiani, sì, giusto, sbagliato che sia, vedremo, ovviamente la situazione è in evoluzione ed è comprensibile che se ne tenga conto. Detto ciò, questo 4 maggio, che è stato utilizzato in molte comunicazioni pubbliche, prenda forma, visto che siamo al 20 aprile e quindi al 4 maggio mancano due settimane, ecco, in queste due settimane organizziamo il miglior 4 maggio possibile. Quello sì. possibile, io non dico quello da sogno, sì. dico quello possibile. Certo. Però visto che ormai l'abbiamo detto in tutte le sedi, questo 4 maggio, e non ce lo siamo sognato di notte noi, sta scritto da molte parti, sì. anche in comunicazioni ufficiali, ecco, adesso secondo me il mestiere dell'Italia tutta, vale quindi anche per De Luca e la Santelli, come vale per Zai e Fontana, per essere chiari, che questo 4 maggio, un unico 4 maggio, magari con delle differenziazioni, però fissate, decise e comunicate, diventi l'oggetto del lavoro un po' di tutti. Mi sembrerebbe serio sì. fare in questo che, modo. Che è quello dell'audio di Bonomi che facevamo sentire poco fa, no? Dice, insomma, qua per il 4 maggio siamo di base già un po' in ritardo, nel senso... bisogna... che anche Bonomi dice 4 maggio, perché ormai... sì, ormai è nella testa di tutti, è nella testa evidentemente anche degli imprenditori. Non a caso Luca Zaia, il presidente Veneto, parla così. Ce l'abbiamo? Via. C'è ancora qualche giorno da qui al 4 maggio, probabile che ci siano anche, diciamo, delle decisioni, diciamo, in via sperimentale che si possono prendere, però mi sembra di aver capito e di capire dall'interlocuzione che è in corso che comunque il 4 maggio rappresenti assolutamente una data importante per la ripartenza e dopo cercheremo di capire la qualità di questa ripartenza, la quantità, cioè quante imprese e che tipo di imprese. Io spero assolutamente che si affronti questo tema, perché altrimenti sarà difficile sostenere anche con i cittadini che si aspettano in sicurezza di poter avere meno restrizioni. Nuovo appello agli amici che si occupano di comunicazione per il presidente Zaia: dotatelo di un microfono decente, per favore, dotatelo di un microfono decente, perché dato lo facciamo sentire spesso, il Veneto e la regione sono un po' più avanzata su questo fronte, viene presa come modello, dunque dotatelo di un microfono decente, così possiamo mandare in onda a quest'ora appunto un audio decente. Oh, poi il fine settimana naturalmente si è composto anche di un po' di sceneggiate che abbiamo visto in giro, ormai standard da weekend, eh? A partire da quella scena incredibile, scusate, del tipo sdraiato in spiaggia a Rimini, l'avrete vista tutti, sdraiato da solo in spiaggia a Rimini, a torso nudo. Gli passa sopra il drone della polizia, arrivano due quad della polizia locale e anche una jeep, eh? Lo circondano come se fosse Matteo Messina Denaro e lo multano. La cosa viene pubblicata sul sito del comune di Rimini, ma io non lo so, insomma, e questo si vede con la faccia, cioè là con la faccia. Io mi sembra un po', insomma, un filino esagerato. Altra scena a Saviano, muore l'amato sindaco, e per carità, è provincia di Napoli, per carità, e muore l'amato sindaco, muore di Covid e si fa un funerale, per così dire, vecchio stile, pre-Covid. Con gli applausi, la gente tutta insieme, le campane che suonano e Vincenzo De Luca, che già avevamo sentito nei giorni scorsi, se fate le feste di laurea e lanciafiamme, eccetera, eccetera, chiude il paese. Saviano diventa zona rossa. Traffico. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Mattino. Oh, De Luca, Vincenzo De Luca, dopo le polemiche del fine settimana sulla Lombardia che dice vogliamo riaprire come, le famose 4D, distanza, dispositivi, eccetera, eccetera, beh, insomma, De Luca scatena una mega discussione dicendo questo: se dovessimo avere una corsa in avanti da parte di regioni nelle quali abbiamo ancora il contagio presente in maniera così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un'ordinanza con la quale vieteremo l'ingresso in Campania di cittadini provenienti da regioni nelle quali il contagio è pienamente in corso. Il nostro Giorgio De Luca dall'altra parte del vetro che dice no, fatemi tornare a casa, a un certo punto, quando si potrà, a Napoli, appello al presidente De Luca. Replica Zaia. È una prima forma di autonomia, ben venga, no? Il Sud ha deciso di sposare il nostro progetto autonomista, non so, lo dico come battuta. Poi posso fare anche un appello, finitele di dire nord contro sud. Se sono loro che dicono che chiudono le frontiere, sarà sud contro nord o no? Una volta nella vita è possibile che dite anche questo. Cioè, loro propongono di chiudere i confini regionali, la Campania. I titoli nord contro sud. È sud contro nord questa roba qua, altro che nord contro sud. Vabbè, poi chissà come fa De Luca a chiudere i confini, ci si mette lui fisicamente? Beh, conoscendo il personaggio, chissà. Allora, resta con noi Roberto Arditti. Intanto però voglio salutare Stefano Nava, che è direttore di pneumologia e terapia intensiva respiratoria dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Buongiorno Nava, benvenuto, eccoci qua. Buongiorno. Reduce da Covid-19, ma ancora positivo, tra l'altro, lei Nava, no? Sì, esatto, esatto. Come sta? Sono ancora positivo dopo 25 giorni oggi. 25 giorni? Benino. Sì. Come è stata? È stata dura? È stata molto dura, soprattutto psicologicamente, perché conosciamo poco questo virus e ovviamente noi come medici di prima linea abbiamo visto sicuramente l'evoluzione peggiore della malattia, quindi il nostro pensiero, il mio pensiero in particolare in questo caso, era sempre rivolto alla punta dell'iceberg, a chi di questa malattia si ammala molto seriamente. E poiché la prima settimana è critica, anche per me i primi giorni sono stati assolutamente critici, soprattutto col pensiero rivolto sempre là dove finiscono i malati più gravi. Certo, naturalmente. Senta, Nava, come, allora innanzitutto molto semplicemente, come vanno le cose da voi, come stanno andando? In Emilia-Romagna direi sta seguendo un po' il trend di tutta l'Italia del Nord. Non abbiamo avuto certamente l'ondata drammatica della Lombardia e del Piemonte, siamo arrivati comunque, probabilmente stiamo, come si suol dire in parole povere, scollinando forse dal plateau. Il problema è quanto veloce sarà la curva di discesa. E questo ahimè non riusciamo ancora a saperlo. Anche perché Nava, il suo caso dimostra che il contagio resta attivo molto a lungo, Ma questo è un po' un mistero, nel senso che ho casi di colleghi che sono rimasti positivi anche per 5 settimane. Questo non è ancora spiegato dagli scienziati, di sicuro ci sono persone che, non dico guariscono perché è un concetto un po' differente, ma comunque diventano negative al tampone dopo le 2 canoniche settimane, e ci sono altri pazienti che invece richiedono un tempo molto più lungo, addirittura più del doppio. Senta, come lo vede questo dibattito sulla riapertura, sulla ripartenza, l'ipotesi del 4 maggio? Insomma, posto che naturalmente, come diciamo sempre, è una decisione che comunque alla fine spetta la politica, come ovvio che sia. Però insomma, il parere di una persona che è là, che è sul campo, che l'ha vissuta e ci lavora quotidianamente con questa malattia, ci interessa. Questa è una domanda estremamente difficile, appunto, non sono politico, non sono un economista, conta anche gli economisti magari decidere qualcosa. Il problema fondamentale è che noi, come dicevo prima, non conosciamo il nostro nemico, non conosciamo a fondo questo virus, chi ha provato a mettere in piedi delle previsioni, ci sono stati degli epidemiologi, dei virologi, e sono stati, non dico prontamente smentiti, ma spesso smentiti poi dalla vita reale. Quindi secondo me bisogna un po' navigare a vista, bisogna cercare un po' giorno per giorno di capire come e dove stiamo andando. Sicuramente qualcosa va riaperto, come, quando e perché, al di là di quello che dicevo prima, non sono forse come dire, la persona più adatta a rispondere a questa domanda, ma dipende moltissimo da come il virus anche si comporterà e come quindi i nuovi positivi verranno appunto scoperti nei prossimi giorni. Roberto Arditi, mi sembra che qua insomma il tema sia questo equilibrio tra un principio di precauzione che si stanno un po' scontrando. Su questo, ecco, vorrei anche sentire gli ascoltatori, sapere che cosa ne pensano, no? Perché poi questo mondo lo vivono anche loro da lavoratori, sono persone che poi devono rientrare nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, insomma, oppure rimanere a casa. E quindi 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio anche. Roberto, appunto, una sorta, no, di divisione tra un principio di massima, tra chi pensa che debba mantenersi un principio di massima precauzione, no? Un po' come per esempio ha fatto la Grecia, che su questo fronte è riuscita a gestire ottimamente, però sta rischiando un tracollo del prodotto interno lordo pesantissimo, e dall'altra parte chi dice beh, insomma, qualcosina va rimesso in piedi. La mia opinione è questa, fermo restando appunto che la situazione è complessa, però siccome di crisi economica grave si muore esattamente come di un virus, e questo è bene che ce lo diciamo da subito, perché se guardiamo i dati, tu citavi la Grecia, se guardiamo i dati di quel paese negli anni più difficili della crisi, dopo le vicende finanziarie del 2008-2010, la Grecia ha conosciuto momenti di crisi sociale che poi diventa esistenziale, con numeri impressionanti. Quindi di crisi economica si muore, oltre che soffrire da tanti altri punti di vista. Io dico che il tema, secondo me, non è circuito aperto, circuito chiuso. Cioè, noi siamo probabilmente nelle condizioni, per molte attività lavorative, di programmare una ripartenza in sicurezza. Cioè, esistono molti mestieri che si possono esercitare tenendo conto della situazione nella quale operiamo. Tanto è vero che, per ragioni più che comprensibili e giustificate, abbiamo tenuto aperti, tanto per fare un esempio, i negozi di alimentari o le farmacie. Gli schermi che abbiamo visto alla cassa del supermercato o nelle farmacie in queste settimane non c'erano a gennaio. Quindi vuol dire che quei luoghi di lavoro si sono organizzati per fare il loro mestiere tenendo conto del virus. Bene, magari non in tutte le situazioni, ma in molte situazioni di lavoro, di fabbriche, uffici, impianti, capannoni o altro, si può lavorare ad aiutare le aziende a per mettere il più possibile in sicurezza i propri lavoratori. Si può, per esempio, fare frequentemente dei test a chi va a lavorare, in modo tale che, se qualche caso riemerge, lo intercettiamo subito, non come abbiamo fatto in molte RSA, tanto per essere chiari. Ma eravamo anche in un'altra fase. Insomma, non è o tutto o niente. Si può, secondo me, e si deve lavorare per una riapertura alzando il livello delle cautele, in modo tale che però si possa riaccendere il motore economico della nazione, perché se non facciamo questo, penso al settore della ristorazione e del turismo, che per l'Italia non è un dettaglio. No, decisamente allora, no. Quindi trovare una strada di riapertura in relativa sicurezza è, secondo me, il mestiere prioritario innanzitutto delle prossime 2 settimane, cioè quelle che ci separano dal 4 maggio. Quindi testa bassa e lavorare su questo, e ci consenta il commissario, come lo vogliamo chiamare, commissario agli approvvigionamenti Arcuri, agli approvvigionamenti sanitari, ce lo consenta in questo momento, meglio evitare sbavature come quella del fine settimana, per esempio questa. Tra l'11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, a Milano persero la vita sotto i bombardamenti 2.000 civili in 5 anni. Per il coronavirus, in 2 mesi, dal primo caso a Codogno ad oggi, in Lombardia ci hanno lasciato 11.851 civili, 5 volte di più in soli 2 mesi. Insomma, paragoni francamente che servono a poco. Atteniamoci alla comunicazione istituzionale per quanto possibile. Il fine settimana è stato anche quello, insomma, nel quale all'infinito si è discusso di nomine, ci si è spaccati anche all'interno del Movimento 5 Stelle, come si diceva, a testimonianza che la politica torna alla normalità. Loro sono già tornati alla normalità. Occhio. Grazie Roberto Arditi, direttore editoriale formiche.net, Stefano Nava, direttore di pneumologia e terapia intensiva respiratoria all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, naturalmente a lei e a tutti i suoi colleghi. Un buon lavoro, grazie per quello che fate, in bocca al lupo per il recupero. Noi chiudiamo con il nostro inno. Ci sentiamo tra poco con la rassegna stampa. Molti elementi, a partire da quelli che riguardano la vicenda delle mascherine fantasma della Regione Lazio. GR.